non sapere, come non farsi fregare, come non potere avere niente da imparare, come non voler sentire quello che hai da dire, come non trovare mai la forza d'affiorare.